America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuto in America 24 da New York, Mario Platero. Children in America should not be poisoned. Federal government comes in, federal government acts. Beh, un dibattito vivace, quello di ieri sera, tra Bernie Sanders e Hillary Clinton. La Clinton è partita all'attacco dopo la sconfitta del Michigan. Ci sono appuntamenti elettorali importanti la settimana prossima, ma oggi non vorrei parlare di politica. Non è che il quadro sia cambiato molto rispetto a ieri o avanti ieri. Vorrei parlarvi invece di un dato molto interessante che ho registrato ieri. Qual è questo dato? E ieri abbiamo festeggiato il 7° anniversario del bull market. Dal 9 marzo del 2009, dopo la crisi tremenda, la crisi finanziaria tremenda di quegli anni, l'S&P 500 ha guadagnato il 190%. Il Dow Jones per lo stesso periodo ha guadagnato circa il 160%. Ecco, abbiamo avuto però dei segnali di volatilità negli ultimi mesi, in parte dovuti anche alla crisi cinese. Qualcuno si domanda se questi segnali di volatilità torneranno, e qualcuno sostiene che torneranno, che saranno inevitabili. E in questo contesto devo dire c'è stato uno sviluppo interessante che riguarda l'oro. Non abbiamo parlato dell'oro da moltissimo tempo, ricordate che l'oro fece dei balzi enormi dal punto di vista del prezzo. Ebbene, negli ultimi tempi ha recuperato parecchio e dunque vorrei parlarvi di oro non soltanto come bene rifugio, ma perché ci sono delle notizie interessanti che riguardano possibili scoperte di nuovi giacimenti. Ne parlo con uno dei protagonisti di questo mercato, con Peter Malhado, e oltre ad essere un esperto dell'oro è anche un investitore. E qui con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Peter, hello. Buongiorno Mario, thank you for having me in. La domanda che voglio fare a Peter Malhado è: l'oro è aumentato del 9% dall'inizio dell'anno, quali sono le prospettive dell'oro guardando in avanti, soprattutto come bene rifugio? Mario, come tu sai benissimo, l'oro ha attraversato un periodo molto difficile negli ultimi 4 o 5 anni. Dopo aver raggiunto i $1,900 l'oncia nel settembre 2011, è entrato in un trend negativo che ha portato le ETF dell'oro a liquidare quasi il 50% delle loro attività. E sebbene sembra che non si possa mai essere sicuri rispetto al trend dell'oro, a giudicare dall'inizio avuto quest'anno, sembra che ci sia qualcosa di positivo nel mercato dell'oro. Un trend al rialzo. Bene, Peter, parliamo dell'estrazione, della situazione attuale. Quanto è facile o difficile estrarre oro oggi, nel 2016? Abbiamo già estratto tutto quel che si poteva, oppure ci sono ancora ampi giacimenti da sfruttare? Ecco, qual è la situazione? Most of the metal sector right now, as you know, is in terrible shape. La gran parte del settore dei metalli è in un periodo di forma decisamente negativo. L'oro rappresenta un'eccezione, il cui mercato sta andando molto meglio rispetto agli altri, soprattutto rispetto ai metalli base, in cui c'è una sovrapproduzione a livello mondiale. Con l'oro ciò non accade, essendo molto molto più difficile trovare delle nuove miniere. Ti faccio due esempi. Negli ultimi 50 anni l'estrazione media è decisamente cambiata. 50 anni fa si estraevano 0,3 once per tonnellata. Oggi, analizzando il rapporto annuale di compagnie come Barrick Gold, si vede come l'estrazione media si attesti in 0,035 once per tonnellata. Stiamo parlando di un declino storico. Il secondo esempio riguarda le scoperte di nuove grandi miniere d'oro, oltre 5 milioni di once. 50 anni fa se ne scoprivano 2-3 nuove all'anno, mentre adesso se ne trovano molte meno. Anzi, negli ultimi 3 anni non è stata trovata nessuna nuova miniera d'oro di queste dimensioni. La produzione annuale attuale è di circa 2.500 tonnellate d'oro, in linea con quella degli ultimi anni, ma gli analisti affermano che già nel 2016-2017 la media si abbasserà. E dove si trovano i più importanti giacimenti? La Cina è attualmente il più grande produttore mondiale d'oro, con circa 450 tonnellate all'anno, seguita dall'Australia e poi probabilmente dal Nord America, con Canada e Stati Uniti insieme. Poi c'è il Sudafrica, che è sempre un gran produttore, ma decisamente meno di quanto lo fosse 20 anni fa. Ecco, Peter, però hai detto che gli USA sono uno dei più grandi produttori. Dove viene estratto l'oro qui, in America? Il 95% dell'oro americano viene estratto dal Nevada. Beh, quindi non in California, come si pensa nell'immaginario collettivo, pensiamo alla grande corsa all'oro in California. There is still some gold mining in California. Sì, certo, si estrae ancora un po' d'oro in California, Ma se parliamo di industrie e di grandi compagnie come Barrick, la gran parte del settore è in Nevada. E poi ci sono delle zone, diciamo, esotiche, dove le grandi compagnie si stanno concentrando. Si tratta però di zone difficili sia da un punto di vista della legislazione per la tutela del territorio, sia dal punto di vista delle difficoltà oggettive, proprio a causa del territorio stesso. Un esempio sono le montagne al confine tra Cile e Argentina, sulle Ande, a oltre 4.000 metri d'altezza, dove proprio Barrick ha investito 5 miliardi di dollari a Pascualama. Investimento che potrebbe raddoppiare o triplicare proprio per le problematiche ambientali e politiche. Beh, quello che dice è molto divertente perché, tra l'altro, mi porta down memory lane, perché uno dei miei primi lavori qua a New York è stato con una banca, con la Republic National Bank, che pensa ogni sera faceva il fixing del prezzo dell'oro in America. Ecco, da quando la Cina è diventata così attiva sul mercato dell'oro, ci sono stati alcuni cambiamenti. Ecco, credi che continueranno ad essercene, soprattutto dal punto di vista del prezzo e del cartello che forma questi prezzi? Quello che si vede è che il cartello dei prezzi potrebbe spostarsi a breve termine, dall'Occidente, dove è tradizionalmente fissato in dollari, da quello che noi chiamiamo paper market, che considera l'oro quasi interamente come uno strumento cartaceo, piuttosto che una materia reale, all'Oriente, dove il mercato asiatico è in forte espansione, soprattutto in Cina. Questo processo ha preso piede per due ragioni. Per l'Occidente, come ho detto, l'oro è uno strumento cartaceo al quale aggrapparsi in momenti di paura e di caos dal punto di vista economico. In Oriente c'è una visione differente che caratterizza gli investitori orientali, in Cina, India o altre regioni asiatiche. Loro considerano questa materia prima e il suo mercato come una proprietà di lungo termine, che ha un valore fisico reale. La Cina sta letteralmente spostando il flusso dell'oro dall'Occidente all'Oriente e ultimamente sta spostando anche la fissazione dei prezzi sullo stesso asse. È una storia complessa, ma fa parte di un processo molto più grande, messo in moto da Pechino, che vuole porsi come il leader da un punto di vista commerciale, finanziario e militare. E l'oro è una parte di questa strategia a lungo termine. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho sempre qui con me in studio Peter Melhado, esperto di oro. You are a gold expert, we need to choose the song of the day. Quindi a te, Peter, la canzone del giorno. Absolutely, no doubt, we must have Shirley Bassey singing Goldfinger. Goldfinger, he's the man with the Midas touch. A spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!